czuję sobie gra. I na kwiatyczki kowalem i na ręce piszę. I z wilka jest cudo, na mojo piszę. I z wilka jest cudo, na czuję sobie gra. I na kwiatyczki kowalem i na ręce piszę. Tutti mi quando bacio signorina. Io portavo una riva chiatto sciatta lì e lo stare piatto o viva chiatto sciatta lì i copi di che se dove se lo posso io non lo do dove se ne va invece mi sogna c'è più pizza di cosa mi manca di sotto grigia tutti i cani di svita e zio soprattutto conto fisico. Mi piace sai, tutto fisico. Tutti ti vogliono, tutti ti cercano, che ti reclamano, che non ti giovano. E come quando va, ti faccio sedere, va piena di cune, siamo grande star. Tutti ti amo, e mi quando